Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Una volta che mio figlio, lavato e pulito, viene appoggiato al petto di sua mamma, stanca ma lucida, ho sentito dentro di me un pizzico di serenità in più. Nonostante ciò, non ero ancora veramente felice. Ciao, sono Lorenzo, vivo a Canegrate, lavoro nella provincia di Milano, faccio una specie di rappresentante commerciale, ho 42 anni e sono un papà da 7 mesi. Chiara scrive: in questo momento l'emozione che provo è serenità, perché per una volta sembra andare tutto per il verso giusto. Parentesi, adesso che l'ho detto qualcosa andrà storto. Giuseppe: l'emozione che sento, sono agitato, ho appuntamento con il dietologo e sono ingrassato. Caterina: la mia emozione che provo in questo momento, ansia per le scadenze imminenti della tesi e non è ancora stata stampata. Buongiorno a tutti, sono le 16:08, 7:30 direi in punto, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui e il gioco che facciamo adesso, oggi, è questo. Fate 2 secondi di pausa, qualsiasi cosa state facendo, 1, 2, e cercate di capire che emozione provate in questo momento. 349-238-6666, oppure Voi siete qui Radio 24 è il profilo Facebook, oppure Voi siete qui R24 è il profilo Twitter. Il mio invece diretto è semplicemente Matteo Caccia. Cercate di spiegarla questa emozione, datele un nome, usate un sostantivo, metteteci un aggettivo vicino se volete, spiegateci perché vi sentite così. Siete allegri, siete stanchi, siete arrabbiati, avete voglia di fuggire, basta anche una frase composita, non serve per forza essere così riassuntivi. 349-238-6666, oppure Voi siete qui Radio 24. Cristina: sono super nervosa e arrabbiata con me stessa. Andrea: però sto provando una grande noia, sono a lezione in università. Marco: provo malinconia, ho parcheggiato il taxi e strapiove. Ci sono alcune emozioni associate ad alcuni momenti della vita che sembrano preordinate, cioè sembra che quando succede quella cosa nella tua vita è normale che tu ti senta in quel modo, perché tutti si sono sentiti in quel modo lì, perché tutti hanno provato quell'emozione, quindi anche tu la devi provare. La storia di oggi, la storia di Lorenzo, ci fa capire che non è sempre così. Non è sempre vero che quando ad esempio ti nasce un figlio immediatamente tu provi una felicità dirompente. Il racconto di Lorenzo parla di come a volte le emozioni semplicemente tardino ad arrivare, oppure siano da elaborare, siano da digerire. 349-238-6666. Tempo fa c'era un romanzo italiano molto bello che si chiamava Caos Calmo, scritto da Sandro Veronesi. Sandro Veronesi, vero? Dei fratelli, quello bravo, ok. Sandro Veronesi che scrive questo libro in cui il protagonista rimane vedovo, perde la moglie, e il romanzo è, la dico male, è l'attesa di un dolore che non arriva, cioè di un'emozione che tarda ad arrivare, e lui è lì che l'aspetta e dice: ma cavolo, è mancata mia moglie e io dovrei disperarmi, e quella roba lì stranamente non arriva. Ecco, la storia di Lorenzo parla dall'altra parte, non parla di una morte, parla di una nascita, però della sensazione che è strano, non sono felice come pensavo o come sembra di solito si debba essere felice. Poi arriva, ovviamente, ci mette quasi 24 ore e quell'emozione arriva. Per cui adesso facciamo questo gioco, sono le 16:10 in punto. Dove siete? Siete in auto? Siete in ufficio? A casa? Qualsiasi cosa state facendo, che emozione state provando? Perché? Da dove arriva? Provate a cercare di andarci fino in fondo con l'emozione. Magari è solo una sensazione, magari non è un'emozione, non so esattamente quale sia la differenza, però magari è solo un'apparenza e in fondo state provando un'altra cosa. Giochiamo al gioco delle emozioni oggi. 349-238-6666. Questa è la storia, ma soprattutto questa è l'emozione di Lorenzo. Oggi poteva essere un giorno come tanti altri. Sono le 5:42 del mattino e non sto dormendo come di consueto. Infatti oggi è un giorno speciale. Oggi divento papà. È il 15 luglio 2013. Da pochi istanti sono papà di un bellissimo bambino, Gabriele. Sono in sala parto dell'ospedale di Busto Arsizio e la gioia è intensa. Sono felice, ma stranamente non provo quel tipo di felicità che credevo o che immaginavo di provare. Quello che ti senti dire da chi è già diventato papà. Ti parlano di svenimenti, madri che inveiscono crudamente, come possedute da un alieno, oppure piagnistei, in una sorta di mistico evento che coinvolge coloro che ti circondano. Invece no, nulla di tutto questo. Il personale medico, molto professionale, molto accomodante, procede con quanto necessario affinché sia la mamma sia il piccolo stiano bene e ogni cosa vada come da procedura. Abbiamo cercato a lungo, diciamo anche con un aiutino da parte in ambito medico, fortunatamente in modo naturale, però diciamo che è stato cercato assolutamente molto, abbiamo cercato molto. Il papà, che in teoria è uno delle fondamenta di questo evento, è uno dei protagonisti, diventa quasi una comparsa durante il parto. Ho assistito a tutto l'evento e non ho avuto paura, ero teso, certo, ero preoccupato, ma mi fidavo del personale medico. Soprattutto mi fidavo di mia moglie. In quel momento io mi sentivo solo una comparsa, qualcuno a cui viene concesso di assistere per dovere, ma quasi inutile, anzi a volte fastidioso. Laura, mia moglie, è stata così brava da farmi sentire piccolo e insignificante. Il mio sguardo e la mia attenzione erano combattuti tra il non volere distogliere l'attenzione da nessuno, dalla mamma sul letto o dal piccolo che viene lavato e accudito. In quella stanza, in quei pochi metri quadri, sentivo solo il dovere di essere vigile su entrambi. Ero frastornato e allo stesso tempo ancora lontano. Una volta che il piccolo Gabriele, lavato e pulito, viene appoggiato al petto di sua mamma, stanca ma lucida, ho sentito dentro di me un pizzico di serenità in più. Nonostante ciò, non ero ancora veramente felice. Il fatto di descrivere la felicità e definirne il significato credo sia complicato quanto capire la legge di gravità, la legge della relatività di Einstein. Figuriamoci spiegare questo o quel tipo di felicità, soprattutto per un evento atteso con entusiasmo. Io ho 41 anni, sono incline al pessimismo e alla negatività. Da quando ho perso mia madre, 15 anni fa, da quel giorno ho visto la vita in modo molto differente. Ero una persona più positiva e soprattutto speranzosa verso il futuro. Quando mia madre si ammalò non capii subito quanto il tempo da quel momento in avanti sarebbe contato per la nostra famiglia. Io sono il fratello maggiore, eppure mi sento ancora oggi un idiota per le volte in cui mi sono perso, perché ero troppo preso ad inseguire la mia felicità. Mia madre avrebbe adorato mia moglie. Le somiglia nel carattere ed è anche per questo motivo che con la nascita di mio figlio immaginavo che io, quel Lorenzo di allora, sarebbe tornato. E invece no. Lorenzo vedeva una creatura attesa da tanto tempo da accudire e accompagnare verso il futuro, a cui dare tutto se stesso, ma non una creatura di cui essere felice. Ero come mosso da uno strano senso del dovere. Oggi, 15 luglio, papà Lorenzo è confuso. È possibile che sia diventato così cinico, così freddo, così assuefatto all'idea che la vita sia solo un lento e inesorabile percorso che porta solo ad un epilogo. La vita stessa è fatta di tanti momenti, ma spesso sono i momenti di maggiore felicità a scomparire prima nella nostra memoria, per essere occupati solo da quello che di brutto e di triste abbiamo vissuto. La vita per me negli ultimi anni è stata una fregatura. Una promessa mancata. Qualcosa che nel mio essere vivo mi spettava di diritto, come se dovesse cadermi tra le braccia. La nascita di Gabriele doveva essere questo per me. Eppure, ancora oggi, la mattina del 16 luglio del 2013, non lo è. Mi sento fallito. Un uomo spoglio e nudo di fronte alla vita di cui ho il privilegio di godere. Le ore da quando è nato Gabriele scorrono quasi sospese nel tempo. Sono papà da pochissimo. E quella felicità non arriva. la felicità che tardava ad arrivare era dentro da qualche parte, perché comunque la felicità è una cosa che con la quale nasciamo e abbiamo. Probabilmente anteponevo il discorso di essere felice ai doveri di essere padre. Ora sono in auto e sto giusto andando a trovare la mamma e Gabriele, che sono ancora in ospedale. È il primo pomeriggio del 16 luglio. Sono passate solo poche ore dall'inizio della storia. In questo momento però accade qualcosa di diverso. È in questo momento che inizio a piangere. Piango a tal punto da dovermi mettere gli occhiali da sole, per la vergogna di essere visto da altri automobilisti. Piango senza avere più il controllo di me stesso. Metto la freccia, ormai vedo tutto sfocato, la vista è annebbiata e potrei rischiare un incidente. Accosto sul ciglio della strada, spengo la macchina e rimango qualche attimo fermo, immobile. Inizialmente non capisco nemmeno il motivo, se non per un dettaglio. Le lacrime non smettono di scendere e guardo il cielo. È azzurro come di rado capita in una giornata di luglio. Solo in autunno ci sono cieli così azzurri e limpidi. Devo ricompormi, non posso presentarmi in ospedale in queste condizioni, ma le lacrime scendono senza che riesca in nessun modo a fermarle. Non è successo niente, eppure è successo che mi sento felice. Le paure ed il pessimismo per un mondo che mi preoccupa rimangono, ma nel mio piccolo e con la mia famiglia posso fare qualcosa per sperare di renderlo migliore. Mio figlio ora ha 7 mesi. A volte le lacrime scendono dalla gioia. Le sue facce micidiali e l'essere così indifeso ammorbidiscono tutte le mie paure. Non so ancora cosa significhi essere papà, ma la felicità di esserlo dà energia a tutte le mie giornate. Con il suo bambino, ovviamente, Lorenzo, nella fotografia che trovate sul nostro sito radio24.it, alla pagina di Voi Siete Qui. Sorridono tutti e due tantissimo, hanno alle spalle un armadio, credo, della stanza di Gabriele, e devo dire, visti così, non si somigliano per niente. Pronto, Lorenzo? Pronto. Ma solo Matteo. Perché è molto piccolo, poi ovviamente ti assomiglierà tantissimo quando crescerà. Ma guarda, francamente non è un problema, anzi preferisco che assomigli a mia moglie. Assomiglia alla mamma, questo è un classico che dicono, che dicono i papà. Dove sei adesso esattamente, Lorenzo? Sono a Settimo Milanese. Sei in giro per lavoro? Esatto. Sei un commerciale, dicevi, giusto? Sì, un commerciale. Diciamo, non solo sotto l'aspetto, diciamo, puramente commerciale, anche di marketing o di anche merchandise, un po' di tutti, insomma. Ma qual è l'oggetto? Cosa vendi? Parliamo di un marchio, un noto marchio di informatica molto molto importante. Ok, va bene, perfetto, ci fermiamo qua. Lorenzo, andiamo invece a quella bolla che è durata quasi 24 ore, giusto? Lui è nato il 15 di luglio. Sì. E poi il 16 è successa questa cosa. Ti ha un po' stupito, proprio visto che ci hai mandato la storia, no? Noi chiediamo una storia che in qualche modo racconti qualcosa di voi, e tu ci hai mandato questa, che è legata chiaramente a un momento di grande felicità, ma anche a un momento di straniante per certi versi, giusto? Sì, guarda, Matteo, il problema è proprio stato nel capire che cosa, come mai non mi sentissi realmente esplodere di gioia, perché comunque, come ho detto, era atteso, l'abbiamo cercato, insomma. Diciamo che mi aspettavo una cosa più immediata, un po' come hai fatto tu la premessa, giustamente, quando accade un evento uno si aspetta una determinata reazione. Io ho dovuto elaborarlo, probabilmente anche sostanzialmente inconsciamente, credo, non è una cosa che è una cosa che è venuta fuori, e mi ha stupito proprio per la naturalezza, nel momento in cui proprio ho capito in che situazione mi trovavo, dove mi trovavo e cosa dovevo andare, sì, a insomma, fare. Insomma, hai realizzato. Ho realizzato. Scusami, Lorenzo, questo tuo pessimismo cosmico, vogliamo parlarne? A che punto è? Il punto che è una ferita sempre aperta, è qualcosa che sulla quale non guarisci mai. Tu stai parlando della morte di tua mamma in questo momento, che ti ha causato questa forma di pessimismo generale? Sostanzialmente sì, ma anche perché è arrivata proprio una malattia di sofferenza, quindi diciamo che non ho mai metabolizzata, non lo so esattamente cosa c'è dietro. Diciamo che, ma non solo questo evento, una serie comunque di condizioni e di altri eventi che sicuramente inferiori. Chiaro. Che mi hanno che portato contribuiscono. A questo. Esatto. Senti, che tipo è Gabriele invece, Lorenzo? Ah, Gabriele è quando ride, lo dico sempre, si illumina la casa. Cioè... Queste proprio le parole del papà. Invece, senti, io vorrei. C'è una frase che mi ha incuriosito, perché tu dici: va bene, insomma, il mondo là fuori è sempre orribile, però ho la sensazione che adesso, in tre, educando e crescendo mio figlio, noi possiamo fare qualcosa, io e la mia compagna, insomma, io e mia moglie, possiamo fare qualcosa per renderlo migliore, no? Questo sembra quasi una sorta di manifesto politico. Te lo chiedo perché è una cosa di cui parlavo l'altro giorno con un amico che ha da poco avuto un figlio e diceva quanto si è reso conto che sia importante crescere non tanto un figlio ma una persona, educandola eccetera eccetera. Hai la sensazione che crescere un figlio sia un atto politico? Capisci cosa intendo? Sì, è una grossa responsabilità e spesso si sottovaluta e forse un tempo era visto in un altro modo essere padre e avere un figlio. Oggi come oggi è difficile, e la mia paura che mantengo attualmente è quella di dire: farò la cosa giusta, quando si presenterà questa determinata situazione, quando farà questa cosa. Cioè, siamo stati ragazzi, giovani anche noi, abbiamo fatto anche noi le nostre stupidaggini, e noi saremo in grado di, con i tempi di oggi, perché io comunque ho il pessimismo è anche rivolto anche al contesto, l'atto politico c'è perché è una grossa responsabilità. Ed è questo alla fin fine essere padre, oltre che ad essere felici. Come va il lavoro? Come va il campo in cui lavori tu, l'informatica? Insomma, lasciamo stare. Potrebbe andare meglio, diciamo che c'è una forte contrazione, c'è una forte crisi. Quindi da quanto tempo? Dal 2008 o è partita dopo? No, è arrivata un po' tardi, è arrivata un po' dopo in realtà, diciamo che da un paio d'anni è cambiato notevolmente, diciamo, il consumo e di conseguenza anche il mondo a cui ruota attorno il mio marchio, quindi l'infotecnologia. Scusa, si comprano meno computer, meno device, oppure semplicemente li si usano in maniera diversa? Si compra di meno, si sono spostati anche i consumi, si è un pochettino banalizzato l'uso del computer, diciamo che sono cambiate un po' di condizioni per la quale si compra meno, si compra più attentamente. Nulla di male, perché diciamo che parliamo anche di qualcosa rispetto, non so, all'abbigliamento, all'alimentare, alla casa. Lo compri con meno frequenza, ovviamente. Esatto, certo. Quindi esatto. Adesso ti lascio andare perché stai andando, dicevi, a Legnano. No, non a Legnano. Adesso finisco qua a Settimo, al centro commerciale, e poi tornerò a casa. E poi è finito. A Canegrate. Okay. E qui, a Canegrate. Canegrate, c'è in una canzone Canegrate, c'è in un pezzo famoso si parla di Canegrate. Ah, non è un bravo elettricista, fuma poco. Non c'è in un pezzo di Pino Daniele. Sì, c'è in un pezzo di Pino Daniele. Vabbè, adesso lo cerchiamo. Ti ringrazio molto, Lorenzo. Buona giornata, in bocca al lupo. Saluti a Gabriele. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao. Sono le 16:27 minuti. Niente, di là qualcuno. Canegrate. Io sono sicuro che c'è un pezzo. Canegrate c'entra in una canzone di lui, l'ho appena citato, non mi ricordo più il nome. Sono tra la paura e la felicità, sono in attesa a Malpensa della mia ragazza dopo 7 mesi di lontananza. Quella sensazione è molto chiara quando aspetti e non sai che cosa aspettarti in realtà. 349-238-6666, sono le 4:30 di una giornata qualunque, siete in auto, siete al lavoro e state provando un'emozione precisa in questo momento. Ciao, sono arrabbiato e sconcertato per il mio prossimo trasferimento in ambito lavorativo, Alex. La mia emozione è fame e voglia di realizzare il progetto di vita appena intrapreso, la nuova casa più grande per noi tre, senza mezzi all'apparenza ma credendoci tanto. Dai cazzo, scrive Armando Pescara, tutto lui se lo scrive, me lo immagino da solo in auto che si carica. Dai Armando, dai, dai, gioia per termine lavoro. cioè perché finisco il lavoro e torno a casa a preparare una splendida cenetta per moglie e figli che tornano da 3 giorni di vacanze. Sembra il pubblico perfetto il nostro, no? Sembra quel che hanno finito di lavorare e tornano a casa felici. 349-238-6666, nove drate, grazie per avermelo detto. Vedi che però c'era qualcosa nella canzone di Pino Daniele, era nove drate, non cane grate. Sono in una bolla di calma zen, scrive Lucia. Sensazione che mi regala sempre fare la maglia ai ferri. Da provare. Che immagine meravigliosa questa, Lucia. Sei a casa tua sul divano e stai facendo la maglia è lana, quindi, giusto? Sciarpe, maglioni. Yeah. È vero, questo è un consiglio per un agente di commercio che è in automobile ed è nel traffico in questo momento. Se volete rilassarvi un po', tirate fuori la vostra bella maglia ai ferri ed entrerete in una bolla di calma zen. Sono disarmato e ho paura di dovermi arrendere. Andiamo avanti cercando di guardare oltre gli ostacoli, scrive Davide. In questo momento mi sento calmo, pacifico e quieto. Una giornata di lavoro senza sussurri. Chiudiamo anche la puntata di oggi ringraziando tutti quelli che l'hanno resa possibile, che sono Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Vi ricordo che potete scaricare il programma in podcast, ovviamente, o ascoltarlo in diretta o in replica la mattina alle 5:15. Se volete invece mandarci una storia, voi siete qui @radio24.it. Domani siamo di nuovo in diretta a raccontare storie e a cantare. Alle 16 avremo ospite per i live di Voi Siete Qui Levante, la cantante più cliccata degli ultimi anni con il suo pezzo Alfonso, che ce lo suonerà? Boh. E invece se andate sul nostro profilo Facebook Voi Siete Qui Radio 24 trovate il live di Bruno Rissast registrato e andato in onda 2 settimane fa. Grazie a tutti, grazie a Lorenzo. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Melanie, ho 26 anni, vivo a Milano. La storia è la mia e parla del primo e ultimo appuntamento. Questa è la mia storia e io sono qui.